Buonasera amici di Radio Cage. Eccoci in diretta. Buonasera amiche anche di Radio Cage. Soprattutto le amiche di Radio Cage. Siamo alla puntata numero 14. 14, un numero che fa tremare le pareti. Ma no, non mi risulta. Però forse farà piacere sapere che siamo in compagnia di due ospiti questa sera. Andiamo subito a presentarli. Sì. Dunque, potete farlo da soli se volete. Ciao a tutti. Tutto bene? No, un attimo. Ah, uno è Francesco Biondi, avete riconosciuto dalla voce che va e non va, esatto. La voce un po' stentorea, tipica di Francesco Biondi, sì, tipica dei Biondi. Esatto. E poi abbiamo... No, deve essere proprio una caratteristica degli ospiti. Degli ospiti di Testa Croce Show. No, dunque è Marco Bruciati, attore, e Francesco Biondi, forse lo ricordate, è già venuto in trasmissione, è drammaturgo. Ospite della nostra settima puntata, e beh, insomma, avremo modo di parlare con loro. Sì, li presenteremo anche meglio più avanti. Certo. Intanto vi ricordiamo i nostri contatti. Sì, dunque, se volete contattarci potete farlo alla nostra email, testacroceshow@gmail.com. Il contatto Skype è Testa Croce Show. Oppure abbiamo il blog testacroceshow.blogspot.com, che è stato aggiornato da poco. Sì, da poco. Saluto già Collabi che ci ha scritto, ci sta seguendo. Spero non sia un bot. Se non lo è, sa cosa vuol dire. Se lo è, non sa cosa vuol dire. Quindi esatto, siamo a posto così. Sì. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando assiduamente. Assolutamente. Ascoltatori affezionati. Dunque, oggi è il 16 febbraio. 16 febbraio, Santa Giuliana di Nicomedia, martire, San Maruta, vescovo, e San Panfilo e compagni, che erano martiri di Cesarea e di Palestina. Che viaggiavano per mare. Viaggiavano probabilmente. Tipicamente. Sull'acqua, sì. Dunque, questo comunque è l'almanacco di Testa Croce, sì. Come avete capito. Passiamo alla celebrazione delle morti. Nel 1907 se ne andava Giosuè Carducci, scrittore italiano, premio Nobel. Sì. E adesso le nascite, facciamo che sono più allegre. Sì, sono decisamente più allegre. Facciamo gli auguri a Valentino Rossi, a Massimo Ciancimino e al musicista compositore Steve Roach. Dunque, Johann Strauss, non sono auguri, ma insomma era il compleanno nel 1866, nasceva nel 1866, poi Sonny Bono, del duo Bono & Cher, poi Eckhart Tolle, forse lo conosci, grandissimo spiritista. Insomma, il tizio che parla di meditazione, no? Di risveglio, di illuminazione. Sì, tizio, insomma, un uomo. Sì, vabbè. È già relegato al ruolo di no, tizio. Vabbè, no, comunque. Poi Roberta Williams, progettatrice di videogiochi, John McEnroe, grande tennista pluripremiato, Dave Lombardo, batterista degli Slayer, e poi Mr. Jefferson, il primo vitello clonato della Virginia. Ah, però, un bel nome. Pensate, sì. Mr. Jefferson. Sì. Benissimo. Anche domani sarà un giorno particolare, perché, anzi, saranno due giorni in uno, perché il 17 febbraio ci sarà la festa del gatto. Tutti gli anni il 17 febbraio si celebrano i felini. E la giornata antisuperstizione, in quanto venerdì 17, organizzata dal Ah, Tito. Ok, non è casuale. Non è casuale, no. E tra l'altro è anche la ricorrenza di quando bruciarono purtroppo Giordano Bruno in Campo dei Fiori nel 1600, stante Clemente VII Papa. Benissimo. Bene, sì. È andato. Sì, è andato, direi che passiamo a un po' di musica. Un po' di musica. E poi vediamo di riuscire a presentare meglio i nostri due amici. Questa è Nightmare City dei Living Color. Oh, she's seen. Little children know. Little children know. Nobody knows the trouble I see. Rieccoci in diretta, amici e amiche di Radio Cage. In compagnia di Filippo Biondi e Marco Bruciati. Ma no, come? Come? No. No, Francesco Biondi. Francesco Biondi. Pardon. Francesco Biondi. Francesco. Perché sono qui con noi? Francesco, ce lo vuoi dire tu? Ah no, siamo qui solo per ricordare probabilmente l'evento dell'anno di Livorno, domenica 19, questa domenica alle 21.30. All'Eos Theater, cioè all'ex Aurora, va in scena il nostro Padre Pio, una storia falsa. Consiglio di venirlo vedere, di venire a vederlo. Venire a vedere. I più attenti tra voi si ricorderanno che ne abbiamo già parlato nella settima puntata, appunto, e aveva un altro titolo allora, però. Sì, è un working title sì. diverso, era più horror show, se non sbaglio, sì. ma insomma. Va bene, è stata presa questa sì, decisione qui e abbiamo appunto avevamo il protagonista Filippo Scarpario, adesso abbiamo Marco Bruciati, che è un altro attore della compagnia e direi di cominciare da lui, sì, no? Sì, sì. Metterlo anche sotto per occhio. Sì, sì, sì, per par condicio. Marco, allora, ciao, parlaci ciao. Un po' del tuo ruolo. Sì, intanto grazie dell'ospitalità ovviamente. Grazie a te. Ci scusiamo per bando ai convenevoli. La presentazione di prima, ma purtroppo da 4 mesi andiamo avanti traiettature e maledizioni. Beh, immagino. E Santini, credo abbiamo risvegliato anche l'anima del Monsignor Marcinkus con le nostre prove, quindi ci scusiamo, le interferenze sono dovute a queste, si arrivano. No, niente, bello. Quindi come ha già detto Francesco, domenica portiamo in scena questo spettacolo per la regia di Jonathan Freschi. Prodotto dalla Bottega del Verrocchio, in cui recito ovviamente anch'io e recita Francesco, oltre che essere drammaturgo. Per farla breve, credo, non lo so, hai già parlato della storia più diciamo o meno brevemente di cosa parla. Ricordiamolo a chi non ci ha sì, ascoltati. Sì. Il titolo Padre Pio, una storia falsa è tanto provocatorio quanto in realtà vero rispetto al testo che raccontiamo, perché comunque nello spettacolo Padre Pio non compare, non è uno spettacolo su Padre Pio, ma bensì su quello che, secondo alcune ricostruzioni, chiaramente secondo la nostra visione, colui che ha creato il fenomeno Padre Pio a San Giovanni Rotondo, quindi persona realmente esistita, si può dire. Comunque, o perlomeno sì. che ha avuto un gran ruolo, no? nel portare avanti questo fenomeno mediatico. Quindi lo spettacolo si... Per circa un'oretta si dipana raccontando le ultime ore di questo personaggio, in perenne conflitto tra... Felice e Brunatto, esattamente, giusto? Tra il tenere per sé il fenomeno Padre Pio e il cederlo al Vaticano, che pian piano si sta impossessando del fenomeno. Quindi diciamo noi raccontiamo questo piccolo, che poi si svolge nell'arco di una giornata più o meno il tempo della storia, questo momento particolare della vita di Felice Brunatto, quindi questo passaggio doloroso per lui, che chiaramente lo porterà a vivere una situazione... Porta via suo figlio, lui è un po' il padre di Padre Pio, in un certo senso. Esattamente. Sì. E in questo, per farla breve, io rappresento il sindaco di San Giovanni Rotondo, il signor Morcaldi, Francesco Morcaldi, detto anche Cicillo, persona... bruttissima se andate a vedere in foto. Ah, proprio esteticamente. Sì, non si offendano i parenti se ci ascoltano, ma era veramente brutto. Tanto quindi... ormai si sono abituati i parenti. Sì, quando si parla qui di Padre Pio. Un saluto a tutti gli amici di Pietralcina. Ecco. Esattamente. E rappresento il sindaco, che chiaramente in un primo luogo rappresenta la spalla e comunque il braccio destro di Felice Brunatto, ma che poi, ora senza fare spoiler rispetto allo spettacolo, chiaramente prenderà una strada diversa rispetto al padre Brunatto, in questo senso. Benissimo, ricordiamo Beh, appunto sì. che inizialmente la Chiesa, no, aveva un atteggiamento sì, ma... diverso, ostico rispetto a Padre Pio, e cambiò idea, pare, abbastanza contemporaneamente a quando acquisì, diciamo, i diritti economici sui proventi delle varie attività, no, che facevano capo a Padre Pio, è vero, Francesco? Piuttosto redditizie, ecco, sottolinea. Sì, sì, sì, io poi voglio aggiungere solo questa cosa. Aggiungi. La prova come attore di Marco è più complessa, perché oltre al personaggio che è rotondo, così, di Cicillo Morcaldi, riesce a interpretare anche un'altra miriade di personaggi che in realtà, ora nominarli non solo per non spoilerizzare, come diceva prima Marco, però anche perché sarebbe complesso. Lui non accennarlo neanche. Diciamo, in pratica, insomma, interpreterà una marea di personaggi. Una serie di personaggi, sì. Sì, sì, non svelerei questo particolare, sarà interessante vedere anche proprio come è realizzato. Anche perché c'è scritto dovunque su internet. Sì, comunque. Appunto. Sì, ma l'ho scritto io. Questo va bene. Sì, va no, bene. No. Dico, ecco, ma Francesco, ricordiamo un attimo le fonti che ti sono servite per... creare questo spettacolo, sì, perché sì, c'è stata una ricerca comunque, no? Sì, sì, allora, in realtà i più ferrati da questo punto di vista sono il regista, che è Jonathan Freschi, e Filippo Scarpario, che è il protagonista. Da qui, appunto, è da loro che è partita l'idea, il progetto dello spettacolo. Poi il regista è venuto da me dicendomi: guarda, vai a leggerti questo libro, ovvero Il Santo Impostore di Matteo Guarino, e prova a scriverci... Mario Guarino. Di Mario Guarino, scusatemi. e provaci esatto, a scrivere Filippo Biondi, sì, a volte sbaglia i nomi. Ma poi appunto, secondo la nazione, sono un attore, non un autore. Vabbè, ecco, sì, sì, lo diremo dopo questo. Lo diremo anche la reazione sei anche stampa. Un uomo, ricordiamo. E dal libro praticamente mi sono informato un po' su Padre Pio, che in realtà, io devo dire la verità, non conoscevo minimamente, a parte i miracoli e le stigmate, poi di Padre Pio non sapevo niente. Invece in questo libro, che ripercorre anche le storie degli agiografi, con date, cifre, pezzi di giornale. Insomma, molto dettagliato, con molto dettagliato. Citazioni. E io invece da questo libro invece mi sono allontanato poi, dopo averlo letto tutto, eccetera, mi sono allontanato e ho voluto evidenziare in realtà quello che ci interessava un po' a tutti noi, ovvero il fenomeno mediatico di Padre Pio e portarlo in scena, ecco. Benissimo, sì, direi, continueremo a parlare di questa cosa. Di sentirci un po' di musica e non una cosa a caso, ma ci ascoltiamo proprio il promo dello spettacolo. Sì, sì, buona perché, idea. Vabbè, se volete dire due parole. Sì. Marco, sì, contestualizziamo, contestualizziamolo un attimo, perché altrimenti chi non può, a meno che qualcuno, se c'è qualcuno che ancora non conosce gli antefatti del promo dello spettacolo, abbiamo deciso di pubblicizzare lo spettacolo facendo un'operazione opposta, ovvero girando un videoclip e scrivendo una canzone che ha scritto Francesco e musicato Giorgio De Santis, che è particolarmente devota rispetto al santo di Pietralcina, e il video stesso è un video che prende spunto da i veri video devoti, che poi ci si può interrogare se siano realmente devoti o siano falsamente devoti. Certo. Noi abbiamo lasciato questo alone di mistero intorno al video e le quasi 4.000 visite che abbiamo ricevuto in una settimana dimostrano che alcuni ci credono, alcuni non ci credono e qualcuno addirittura ci ha preso sul serio. L'ambiguità si mantiene. Sì, beh, devo dire, la cosa più eclatante sono i commenti. Andate solo per vedere i commenti, nemmeno il video, cioè, no, guardate anche il video, però poi leggete i commenti perché sono esilaranti. Sì, sì. Veramente. Beh, intanto direi di ascoltarcelo. Ascoltiamocelo. Eccolo qua, salvaci da Satana, Padre Pio. Degli arditi di Pio. Sì. Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Rieccoci qua, amici di Radio Cage. Avete sentito, questo promo? No, sì, questo audio, va bene. Avete sentito questo video e visto questo audio. Benissimo. Bene, a proposito di domande, noi abbiamo una premiazione in corso. Sì, sì, perché il nostro concorsone esistenziale per vincere questa volta la mela morsicata da Eva è giunto al termine e adesso a momenti faremo il lancio della monetina per estrarre il vincitore, ma direi di andare a ricordare le domande e leggere qualche risposta che ci è giunta, sì, se non altro quelle nuove, e poi interpelleremo anche i nostri naturalmente ospiti. Naturalmente. Dunque, intanto la prima domanda era: chi è il diavolo? Chi è il diavolo? Bene, abbiamo letto già alcune risposte, quelle nuove sono queste. Paola ci dice il male, molto sinteticamente. Beh, Nicoletta ci dice: è l'ancestrale potenzialità di rabbia, odio, sete di sopraffazione sull'altro e da sé che ognuno porta nel suo io profondo, un alter ego alla scintilla divina da cui siamo nati. Però adesso sentiamo cosa ne pensano i nostri ospiti. Vedo che si stanno litigando il microfono. Marco, chi è il diavolo secondo te? Chi è il diavolo? Sì. Madonna. Libera interpretazione. Puoi anche identificarlo con qualcuno, non devi spiegare per forza chi sia. Sentiamo Francesco. Francesco scalpita. Allora, io voto sinceramente per Jennifer Crepuscolo dell'USI, che è Unione Satanisti Italiani. Lei secondo me è un buon candidato, anche perché lei ama Satana. Direi che è un buon candidato. Vabbè, certo. Sì, il diavolo. È Lorenzo Cominelli il diavolo. Abbiamo invitato il diavolo in trasmissione. Qualcuno esattamente. Assolutamente Lorenzo Cominelli il diavolo. Va bene, ciao Lorenzo. Perfetto. Se ci stai ascoltando. Dunque, vuoi dire per te chi è d'accordo, il diavolo? Per me è Ratzinger. No, vabbè, a parte gli scherzi, concordo un po' con Nicoletta, nel senso che secondo me il diavolo simboleggia, diciamo, la parte oscura, no? L'inconscio della mente umana. Beh, per me è l'uomo, l'unico essere capace di fare del male consciamente e volontariamente. Oi boh. La penso bene, così. D'accordo. Bene, passiamo alla seconda domanda. Qual è il potere più duraturo al mondo? Questo è difficile, attenzione. Abbiamo dato già anche lì qualche risposta. Poi abbiamo la risposta di Paola, l'amore, e quella di Nicoletta che si somigliano. L'amore assoluto per la vita, intesa come esserci ora e a lungo, però. Posso rispondere anch'io? Assolutamente. Il tempo, secondo me. Il tempo è il potere più duraturo. Beh, è interessante. Non fa una grinza. Interessante. Marco? Marco ha una sua opinione sul potere più duraturo. Mi avete preso assolutamente alla sprovvista, ero totalmente preparato. Era questo l'intento. In questo senso mi associo a Filippo Biondi nel dire... Quindi prendi tempo. Capito? Sì, esatto. È il tempo e prendo tempo. No, ma il tempo effettivamente condivido molto la visione di Francesco, a parte gli scherzi. Benissimo. Io invece condivido l'opinione di un nostro ascoltatore che ha detto il Vaticano. Ora non ricordo. Francesco, da Torino. Francesco da Torino. Sì. Infatti non ho letto perché avevamo già letto in trasmissione. Per me è invece la vita, perché la vita non ha una di quelle parole, di quei concetti che non hanno contrario. Cioè non è la morte il contrario della vita, è nascita il contrario della vita. Quindi la vita comprende morte, nascita, tutto ciò che sta in mezzo, sia tra nascita e morte che tra morte e nascita. Perché secondo me anche fra morte e nascita c'è qualcosa nel mezzo. Quindi è il potere più duraturo al mondo, la vita. Sei un reincarnazionista. Assolutamente sì, assolutamente sì, lo confesso. Ecco, confessalo. Bene, poi andiamo velocemente alle ultime due, poi la premiazione la faremo in un blocco successivo, direi. Assolutamente. Dunque, esiste il libero arbitrio? Questa è un'altra domandina semplice. Qui non ha risposto quasi nessuno, ha risposto Nicoletta, quisque compos sui, ognuno è artefice del proprio destino. Ma è vero nella misura in cui siamo davvero consapevoli di questo diritto ancestrale alla libertà di scelta. Quindi solo in quella misura. Oibò. I nostri ospiti se la sentono. Allora, io sì, ovviamente credo nel libero arbitrio. In questo caso, in realtà, a volte ogni tanto mi piace pensare un po' come Forrest Gump, che però è bruttissima la frase della scatola di cioccolatini. Perché in realtà io i cioccolatini, se compro un pacchetto di Kinder, so cosa mi capita, perché è il Kinder, lo so. Però comunque no, in realtà io credo nel libero capita arbitrio, qualcosa di bruttissimo, anche perché essendo ateo io non posso fare altrimenti. Vabbè, puoi fare altrimenti, non penso che l'assenza di Dio escluda una possibile risposta, cioè non è necessariamente Dio che governa l'uomo, se, anche se manca il libero arbitrio, sì, può essere qualcos'altro. Ho capito cosa vuoi dire, però appunto no, io sono ancora più terra terra, cioè, quindi non penso che siamo responsabili delle nostre azioni. Perfetto. No, voglio dire, il concetto di responsabilità etica delle proprie azioni non esclude l'idea di un determinismo, no? Questo, esatto, io, era un per po' esempio, quello che, volevo, che stavo dicendo, che io appunto sono ateo come Francesco, ma sono determinista, proprio riduzionista, convinto. E invece Gab? Ma io penso che sì, che esista, ma è compresso dalle proprie esperienze e dal frutto dell'educazione e dalla vita in società, cioè ciò che ti condiziona comunque, quindi comprime la tua libertà di movimento e in un certo senso. Sì, quindi no, non c'è, ma c'è, diciamo, c'è in una certa misura. Così ci si ricava le gambe. Sì, per me c'è, c'è un eccesso di libero arbitrio per quanto mi riguarda, sì. Cioè è talmente, siamo arrivati talmente in eccesso che si è saturato il livello del libero arbitrio, per cui tutti si è liberi di fare tutto, ma non si è liberi di fare niente poi alla fin fine, perché siamo sempre... Bella visione. Sì, davvero interessante. Ha troppa libertà che quindi diventa... ti porta all'inazione. Sì, quasi. È la classica cosa che buchi in terra e poi arrivi dall'altra parte, insomma, e sei al contrario però. Vogliamo fare un po' di suspense prima della quarta? Diamo sì, un pezzo? Sì, assolutamente. E noi abbiamo chiesto ai nostri ospiti di scegliere loro un brano della playlist. Come di consueto. Vogliamo cominciare con quello di Marco. Marco, che pezzo hai presentalo scelto? Tu. Sì, presentalo tu, assolutamente. Ho scelto Haps Patriots to Harm di Franchino Battiato. Lo motivo? Sì, oppure sì, così a caso? Sì. Perché è il cantante molto gradito da Vincenzo. Forse. Assolutamente, io sì, no. Mi ha detto ottima scelta. Ah, grazie. No, qual è il motivo? No, vabbè, è sempre stato un brano che mi è piaciuto molto. Poi è un po' ritornato in auge con i Subsonica, che hanno fatto una cover che rende abbastanza l'idea rispetto all'originale, assolutamente migliore di quella che hanno fatto Negrita, Luca Carboni o Max Gazzè. E poi comunque all'interno del testo ci sono delle interessanti riflessioni anche sul mondo teatrale, quindi mi sembrava anche attinente col discorso dello spettacolo. Oggi, sì. Sì. Ce lo ascoltiamo, tra l'altro è anche il nome del tour che Battiato sta portando in giro e sarà anche a Pisa il 19 marzo. Salutiamo Franco se ci sta ascoltando. Up, ciao Franco. To Arms. L'invenzione, i direttori artistici, anche quello di Radio Cage, no, assolutamente no. No. Alessio lo salutiamo, Alessio Traversa. No, mandiamo in pensione anche lui, ha una figlia, lo conosco bene, mandiamolo in pensione. Ah, ecco appunto. No, Alessio Traversa, che ciao. Ho visto recitare con piacere, non sapevo di questa sua attitudine. Io. Alla serata al Rifugio organizzata dal Luar. Al Cabaret Voltaire. Al Cabaret Voltaire, sì. Sì. Ma senti. È anche un bravo regista e drammaturgo. Senti là. Sì, allora. Si scoprono tante cose che neanche noi che dovremmo sapevamo. Finiamo questa premiazione. Dunque, c'è l'ultima domanda, che è questa. Nomi e categorie sono necessari oppure solo una fonte di inquietudine? Quindi siamo andati su una semplicità. Sul peso. Dunque, ci risponde anche qui soltanto Nicoletta. In principio era il verbo e il verbo era Dio. La parola che identifica, indica, incasella è la base dei rapporti sociali. L'uomo ne ha necessità assoluta, ma all'interno di nomi e categoria deve esercitare il buon senso e la capacità di non lasciarsi intrappolare né sedurre. Si parlava della settimana enigmistica, no? Il 39 orizzontale questo. No, non esattamente. Francesco, vuoi azzardarti a rispondere? Io dico solo che odio Aristotele, per cui odio i nomi e le categorie. Ecco. Scusatemi, ma va bene. Aristotele tanto Aristotele non se la prenderà. La cultura occidentale, no, ve lo dico. Di no. Cosa intendevate per nomi, dunque, categorie, quindi, nello specifico? Classificare, cioè dare nomi alle cose, sì. Creare categorie per poter definire un insieme di cose. Che una... si contrappone un po' a una visione olistica, no? Unitaria, cioè certamente. Tutto è uno, sì. Ecco, una cosa del genere. Sono un po' in difficoltà, sì. E va bene, allora. Dunque. Ci invierai un'email. Ma rispetto alla vita, sì. Rispetto alla vita. Sì. Dunque, sì, sì, sì. Sono in difficoltà rispetto alla vita, sì. Bene, bene. Sentiamo Vincenzo. Io non sono dall'alto per niente della mia barba, sì. Sì. La tua barba. No, io non sono filosofica per niente in difficoltà. Anzi, trovo che sia un vantaggio evolutivo per l'uomo riuscire a avere categorie e dare nomi alle cose. Bene, vedo che siamo d'accordo, perché per me sono soltanto fonti di inquietudine, ecco. Separazione. Tutto ciò che mina l'unità genera necessariamente affanno. L'abbiamo sempre saputo, che sì, io e Gab la pensiamo allo stesso modo su quasi tutto. Va bene, dai, mi sembra il momento di andare alla premiazione. A premiare, sì. Dunque, come sapete, scegliamo un candidato a test, e Vincenzo... No, a me viene rivelato, te l'ho detto. Sì, vabbè, volta, ok, giustamente da Dio. Io invece lo scelgo con metodi più classici, occhi chiusi e puntare sul foglio a caso, ecco. E è venuto fuori per me Francesco da Torino. Ecco, per me invece la rivelazione mi ha fatto sapere che doveva essere in finale Claudio da Livorno, a cui tra l'altro dobbiamo una buona parte dei podcast, sì, sì, sì. Che potete trovare sul nostro blog, tra l'altro. Esattamente. E quindi dobbiamo andare a fare questa estrazione con la monetina. Sì. Dunque, fatemi... C'è qualcuno che ha un... Sì, ho una moneta. Stavolta, invece di avere il problema di assegnare alla faccia un significato, prendiamo una moneta che abbia già una faccia e facciamo estrarre al nostro tecnico audio, come sempre. È una... Dunque, questi sono... Cos'è, un dollaro? Pesos. Ah, ecco. Pesos, sì. Cubani. 3 pesos, con la faccia di Che Guevara. Ecco, quindi, beh, insomma. La faccia di Che Guevara sarà testa, sarà ovviamente, testa, il resto sì, sarà ma croce. Testa chi è, però? Testa è Francesco da Torino. Bene, e croce è Claudio da Livorno. Quanto vale? In euro, penso... l'ho persa. 5 centesimi di euro, qualcosa del genere. Ah, beh, allora. Ecco qua, sentite il rumore della moneta che cade sulla mano. E è non, ecco, sì, è croce, quindi vince Claudio. Quindi vince Claudio. Claudio ha vinto. È croce? Ha una strana concezione di croce. Ah, non ho visto. Scusate. Non vorrei che fosse, sembrasse che imbrogliamo. No, ho visto male, perché la moneta è molto piccola. È la faccia di Che Guevara. È la faccia di Che Guevara. La faccia di Che Guevara, avevamo detto che era testa, ovviamente. Quindi, no, ci scusiamo con Claudio. Stava già godendo, ma invece la mela morsicata da Eva va a Francesco da Torino. Grandissimo Francesco. E sarà ancora più buona dopo il viaggio, insomma, il trasporto postale. Assolutamente. Penso. Benissimo, allora chiudiamo questa parentesi del concorso esistenziale, sì, con il brano che invece che vuole presentare Francesco. Sì, è la splendida, magnifica Il sogno di Maria di De André. Secondo me è una delle canzoni più belle in assoluto. Grandissimo De André. E ce la sentiamo. Ce la sentiamo. Godete. Nel grembo umido scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese come ogni sera ad insegnarmi una nuova preghiera. E tu piano posasti le dita all'orlo della sua fronte, i vecchi quando accarezzano hanno il timore. Rieccoci qua, amici di Radio Cage. Dopo questo intenso brano, sì, intanto ci è arrivata un'email da Claudio che ci comunica la sua grande emozione, quasi viscerale, fisica, sì, quasi fisica, che è stata rotta dalla scoperta che non aveva vinto lui in realtà il concorso. Ci scusiamo con Claudio, però grazie, e lo ringraziamo per un altro motivo che lui sa, ecco, oltre al fatto che ci segue sempre. No, ovviamente sì, no, quello che abbiamo detto prima, o ce n'è un altro che io non so. Sì, sì, no, per, ah, i, ecco, sì, per i podcast, sì, sì, sì, sì, ma che potranno risultare utili forse anche in altre occasioni, sì, future, sì, sì, certo. Torniamo a parlare dello spettacolo, sì, quindi Padre Pio, una storia falsa. Con Francesco Biondi, lo scrittore. Tanto ricordiamo, sarà il 19 febbraio, questa domenica, sì, al teatro Eos, sì, nell'ex cinema Aurora, in via Ippolito Nievo, sì, 28. E poi il 24 febbraio in replica al teatro Officina Refugio, Scala di Refugio 8. Esatto. Benissimo, allora ci dicevate, noi tra l'altro io e Gab siamo stati alla conferenza stampa, no? Alla, sì, fantastica conferenza stampa che la Bottega del Verrocchio ha voluto, sì, ha voluto indire per presentare lo spettacolo, e ci dicevate delle reazioni della stampa, no? Un po' controverse. Sì, sì, no, in realtà la conferenza stampa è andata molto bene, sembravano tutti molto interessati alle cose che dicevamo, prendevano tutti gli appunti, ma, i nomi, ma, chi sera. Va bene, oggi stamattina io tutto contento, essendo io un egocentrico, narcisista, ovviamente dovevo subito andare a vedere, no, se mi avevano citato, queste cose qua, un po' come tutti voi, fondamentalmente. e niente, quindi vado a comprare il Tirreno, la Nazione. Sul Tirreno ancora non è apparsa la notizia, quindi vedremo. Sulla Nazione, appunto, io vengo additato come additato, vengo come un criminale, vengo indicato come un attore della bottega del Verrocchio. E poi praticamente il mediatore della conferenza stampa, che era Renato Nesi, viene dipinto un po' in questo articolo di Nicolò Ceccioni come il fautore dello spettacolo, come se avesse fatto tutto lui, quando lui, a parte fare la conferenza stampa e fare così. In realtà, essendo presenti, insomma, io ricordo era stato chiarito ampiamente il ruolo di ciascun partecipante alla conferenza stampa, e si capiva che lui era solo il responsabile della stampa per la bottega del Verrocchio. Sì, Nesi, sì, ma appunto, se leggi l'articolo, c'è stata un po' di confusione, evidentemente. Cose che capitano, sì. Sì, comunque spero abbiano parlato, hanno fatto comunque pubblicità, come sapete ogni pubblicità, cattiva o brutta, è sempre pubblicità, no? Naturalmente, sì, sì, naturalmente. Sì, ma certo. E poi c'è una cosa che dunque è stata chiara perché ha partecipato alla conferenza stampa e in parte anche da quello che Francesco con il regista Jonathan Freschi hanno detto al Senza Soste, che ha fatto un'intervista per presentare lo spettacolo, e però magari appunto per i nostri ascoltatori può essere interessante. Voi, prima Francesco, poi Marco o viceversa, cosa vi aspettate di lasciare, diciamo, a chi viene a vedere questo spettacolo? Cioè, uno esce da aver visto Padre Pio, una storia falsa, e con le idee mutate in cosa? Vado prima io? Va bene. Allora, in realtà, quello che secondo... Per me lo spettacolo può piacere o non piacere, questo devo dire la verità. Anche secondo me, è probabile. Infatti, che una delle due. È la cosa che mi interessa meno. Quello che comunque si vedrà è che è stato fatto da professionisti, ognuno nel... Invece sì, anche Marco ovviamente che fa il gesto del... Vabbè, no. È modesto. Ma invece no, dal regista agli attori che ho già citato, tanto quindi non sto a parlare, una... Veramente, sono secondo me la creme di Livorno attualmente... Secondo me a teatro ora questi come sono ora, quasi anche pericolosi da dire, non me ne frega nulla, va bene, comunque... però dei nemici non me ne frega niente. Se volete andate al Vertigo, al Goldoni, andate dove vi pare, non c'è niente del livello di Padre Pio, una storia falsa. Sentite, questo è il calore del drammaturgo Francesco Biondi, che avevamo conosciuto già appunto puntata. Invece Marco? Anche più posato, secondo me, sentiamo. No, io sono vabbè, in ambito teatrale sono chiamato il democristiano del teatro, quindi in questo non ho niente di democristiano, però io collaboro, collaboro con tantissime realtà a Livorno, quindi ovviamente nel senso ci sono delle realtà che lavorano molto bene, alcune meno, alcune molto male, alcune benino. Quindi il panorama è vasto e vario, quindi ci sono cose positive e cose come in tutti i campi, ovviamente, cose negative. Il gruppo di lavoro che si è creato, anche secondo me, è molto valido, soprattutto rispetto ai ruoli che sono stati assegnati. Insomma, Francesco è molto bravo nello scrivere, Jonathan è molto bravo nel dirigere in questo senso, quindi non ha diretto in senso leggero, come si può dire in gergo, ma ha utilizzato una regia marcata. Ci ha messo del suo. Ci ha messo molto del suo, giustamente, aggiungo io, perché condivido pienamente la cosa. A me farebbe piacere che le persone uscissero di lì divertite, innanzitutto, perché comunque è bene chiarire che lo spettacolo nasce in senso un po' di... desacralizzare il tema, cioè giocare un po' anche col santo, cioè in una sorta di, ora non voglio azzardare, però veramente di gioca giù del santo in un certo senso, una bella definizione, in cui ci sono dei momenti chiaramente intensi, seri, in cui però ci sono dei momenti che secondo me devono far ridere e su cui noi abbiamo volutamente calcato la mano per ironizzare su qualcosa. Quindi a me piacerebbe molto che alla fine dello spettacolo le persone si fossero divertite. Ce lo auguriamo tutti. Ecco, una domanda, avrei una curiosità appunto. Secondo voi, forse è più per Francesco questa domanda, cioè secondo te Francesco, uno che non sa niente di Padre Pio, per quanto sia a quanto improbabile, ecco, può comunque godersi lo spettacolo, oppure è richiesto comunque di avere una idea abbastanza chiara del Padre Pio, quantomeno mediatico, ecco? Sì, cioè si capisce tutto praticamente nello spettacolo? Allora, secondo me sì, Devo dirti sinceramente, anche se non si hanno nozioni della storia di Padre Pio, come magari possiamo avere noi, recitiamo di nuovo il libro del Santo Impostore di Mario Guarino, Caos Edizioni. Da Caos Edizioni. Secondo me, magari chi non troverà magari spunti da approfondire. Naturalmente, ecco, naturalmente. Deve essere anche uno stimolo. No? Ecco, appunto, esatto. Perché secondo me è importante riuscire a portare, ovviamente, in teatro anche persone che, certo, appunto, che possono informarsi veramente a 360 gradi su queste vicende. Sì, certo. Sì, ma infatti appunto l'obiettivo è poi principalmente quello di far divertire, riflettere su uno spaccato sociale nostrano in particolare, come quello appunto della questa devozione ai santi in generale. Tutto sommato poteva essere anche un altro santo, non per forza Padre Pio, solo che Padre Pio ultimamente appunto è stato molto poppizzato, come dice Jonathan. Sì, da svariati anni, diciamo. Beh, da un bel po' di tempo. Sì, giustamente. Grazie. Quindi, anche all'azione appunto del clan, no? di Padre Pio, appunto, esatto. Brunatto, Moscaldi, che è interpretato dal qui presente Marco. E, ma anche poi nel passaggio al Vaticano, cioè quando poi, sì, così chiamiamo l'affare Padre Pio è passato in mano al Vaticano, sicuramente è stato ancora più amplificato questo fenomeno mediato. Molto è dovuto anche appunto a Papa Wojtyła, no? Che era un devoto di Padre Pio. Sì, sì, sì, anche questa è una cosa che ho scoperto dal libro di Guarino e che viene accennata nello spettacolo. Pare che Padre Wojtyła fosse un devoto di Padre Pio e è stato lui che ha spinto molto poi per la beatificazione, certo, e la successiva santificazione. Era giovane, no? Più o meno, quando c'erano il noccio. Più o meno giovane. No, diciamo negli anni 20-30, no? Sì. Bene, io vorrei aggiungere una cosa, che sì, secondo me appunto non si devono sentire spaventate le persone di fede da questo spettacolo, secondo me, cioè come ormai ho un'idea ben chiara di come è strutturato, possono venire tranquillamente a vederlo perché non secondo me non rimarranno offese e comunque potranno scoprire cose che daranno spunti di riflessione e se la fede è vera ovviamente rimarrà. Se la fede vacillava, magari potrà succedere qualcosa, però è giusto anche così, comunque. Bisogna mettere alla prova anche la propria fede, no? L'unica cosa, sì, aggiungo una cosa a quello che ha detto Francesco, cosa che l'ha scritto anche nella Sinossi, negli articoli che sono usciti al momento non ne hanno fatto parola, però è bene capire che Francesco è stato molto bravo nel scrivere un testo teatrale, in questo senso, con dei personaggi, uno sviluppo, una struttura teatrale vera, quindi in questo senso qui chi viene a vederlo verrà a vedere una storia che è fatta di personaggi e che il contenuto di questa storia abbracci parte della vita di Padre Pio e che abbia come contenuto Padre Pio non è relativo perché è importante per quello che abbiamo fatto, ma come ha detto Francesco poteva essere San Francesco, Padre Pio, volendo poteva essere veramente qualsiasi altro tipo di santo, quindi da quel punto di vista non credo creerà nessunissimo tipo di problema. E poi è bene sottolineare che non è uno spettacolo giornalistico o d'inchiesta questo, anzi si allontana in maniera evidente da tutto ciò, con ciò senza nulla togliere chiaramente è molto allegorico al lavoro di Paolini o di Celestini in questo senso qui, cioè che lavorano molto più su un teatro di denuncia vero. Noi non facciamo... è una palla, come aveva detto giustamente Filippo Scarparo. No, precisiamolo, è un spettacolo. Non sono palle nemmeno quelle, però noi lavoriamo in senso proprio, abbiamo lavorato in senso molto differente, quindi l'approccio proprio rispetto al tema è completamente libero e teatralmente parlando interessante. Insomma, ne uscirete divertiti e con... Speriamo con uno stimolo a approfondire questa storia. E andiamo con l'ultimo brano della puntata, che volevo fare appunto un omaggio a Celentano, che a Sanremo ha cantato, tra le altre cose, insomma, ha parlato male di Famiglia Cristiana, di Avvenire, scatenando l'ire della Chiesa, eccetera, ma ha cantato 13 Women, che proprio nella puntata in cui c'erano Francesco e Filippo avevamo mandato in onda, e poi ho scoperto che era nel diciamo repertorio di Celentano, con un nome stranissimo, Napoleone, il cowboy e lo zar. E quindi ricambio l'omaggio che sicuramente ha fatto un omaggio a Testa Croce, secondo me. E quindi se ci sta ascoltando, ricambio l'omaggio con Priest and Colin. Buon vecchio Adriano. Nine Chuzzle. With a stain of shoes, and I will hold me the same, then a whole red maybe get the color boss dying. Listen Collins in a Chuso, canzone che... Cosa hai detto, scusa? Niente, assolutamente niente. What's American Boy? What's American Boy? Canzone che infatti ha avuto un grande successo in America prima che in Italia e che secondo alcuni ha iniziato il rap. Benissimo. Per pazzi, una sì, infatti, appunto. Sì, secondo alcuni è successo qualunque cosa. Esatto. Comunque, una canzone molleggiata. Andiamo a chiudere, sì. Allora. Andiamo a chiudere. Allora, intanto ci ha scritto Francesco, ci ringrazia del premio. Grazie, e ci chiede se è possibile inviare il suo indirizzo, oltre alla mela, anche Eva in grandezza naturale. Sì, è possibile. Al momento è dentro una scatolina in polvere, perché ovviamente dopo 4.000 anni. Ma c'è proprio tutta, no, 6.000. Cioè. C'è proprio tutta? Sì, più o meno sì. C'è una costola in più, anche una in meno, non mi ricordo mai com'è la storia. Comunque, vabbè, andiamo alle segnalazioni veloci. Vuoi cominciare tu, Gab? Voglio, sì, voglio. Allora, il 3 marzo 2012 Mauro Billino sarà ad Osimo, Ancona, per l'incontro dal titolo La Bibbia in attesa e il suo Dio alieno, all'hotel Cristoforo Colombo. Un hotel di scoperta, insomma, di cose nuove, dalle 16 alle 19. Il numero di posti è limitato, quindi siete invitati a prenotarvi all'indirizzo m.mistica@hotmail.it. Secondo me da questo titolo si può aspettare solo qualcosa di epico. Ma Billino, tra l'altro, io l'ho sentito parlare, è abbastanza interessante, divertente, anche se non ci credete, insomma, comunque è abbastanza sì, divertente sì. Ascoltarlo. E poi invece sempre all'Aurora, all'ex Aurora qui a Livorno, dove ci sarà lo spettacolo, martedì 21 ci sarà il secondo in Caffè Laico, cioè quelli in questi incontri periodici organizzati dall'UAR, che tra l'altro patrocina anche lo spettacolo sì, Padre Pio. Anzi, ringraziamo ancora l'UAR per l'appoggio. Ognuno lo pronuncia un po' come spettacolo. Sì, va bene. L'UAR? No, non lo so. Comunque il 21, appunto, alle 21 ci sarà Gianni Mainetto del CNR Pisa, che parlerà di logica. Logica da zero al primo ordine. Allora, i nostri ospiti vogliono dire un'ultima cosa, un'ultima riflessione sullo spettacolo, su Padre Pio, su quello che vogliono. Siete invitati a farlo, sì. O tacete per sempre. Sì, ovviamente vi invitiamo tutti o alla prima del 19 o alla replica del 24. In ogni caso, per tutti quelli che vengono il 19 all'Aurora, portatevi una coperta o venite vestiti pesanti. Non è un avviso ironico, ma è la pura realtà. Venite vestiti pesanti o con coperte. Beh, questo inviterà tantissimo la persona a venire. Vi posso dire che spenderete meno che andare a vedere un film al Medusa. Anche. Ecco, quindi, ecco. Quindi tra le due cose... Io sceglierei quella. Anche perché abbiamo effetti speciali pure noi, ecco, a bizzeffe. Questo. Francesco invece come conclude? Come concludo? Concludo che così, con una cosa che non ci c'entra niente, a tutti i fan di Lovecraft e del gioco Cthulhu, per chi lo conosce, vi consiglio di guardare un piccolo documentario che ho scoperto recentemente, che si chiama Road to Hell, L scritto L punto, puntato, e è un documentario che, diciamo... Andatevela a cercare su Google, diciamo. Su Google, basta. E mi è fatto venire a mente, però vi consiglio vivamente Homunculus, il fumetto di Hideo Yamamoto di cui abbiamo parlato in trasmissione sulla trapanazione, perché l'ho letto nel frattempo, è fantastico, è bellissimo, veramente. Benissimo, allora noi ricordiamo i nostri contatti, testacrocesshow@gmail.com, Skype è testacrocesshow, il nostro blog testacrocesshow.blogspot.com. Ringraziamo il grandissimo Federico che è stato con noi in trasmissione. A seguire dietro l'angolo la trasmissione sulle band locali condotta da Jacopo, e dopo di loro Arena Top Again, che parlerà di film candidati agli Oscar. Ringraziamo i nostri ospiti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti i biondi bruciati. Sì, ci risentiamo il prossimo giovedì. Andiamo con la sigla. Ciao. Imagine there.